La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Eccoci insieme, un saluto da Franco d'Assisi, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, che in questa puntata si è aperto con un clima indiano. Le musiche, le sentite, sono quelle tratte dalla colonna sonora del film The Millionaire, uno dei film che arrivano nelle sale cinematografiche nostrane in una settimana che definirei anomala. Anomala perché non ci sono film di aperta cassetta, ci sono invece tante proposte di grande qualità, film europei o americani ma indipendenti, in una quantità che sotto Natale non si è praticamente mai vista, forse anche un po' preoccupante perché difficile pensare che il pubblico di questo cinema possa correre a soddisfare tutte queste proposte, che pure meritano ciascuna la nostra attenzione. Sono film che ci fanno scoprire un cinema più innovativo, più intenso. Alcuni titoli, appunto The Millionaire di Danny Boyle, Stella, che è stata la rivelazione del Festival di Venezia, L'ospite inatteso, un piccolo capolavoro davvero che rischia di esplodere, soprattutto se Richard Jenkins, lo spettacolare protagonista, riceverà la nomination all'Oscar, come sembra possa succedere. E poi parleremo dei 100 anni di un maestro del cinema di tutti i tempi, il portoghese Manuel de Oliveira. Giocheremo insieme con il DVD Game, avremo tutte le nostre rubriche. Ma entriamo nel clima della puntata e della settimana al cinema con il nostro audio sommario. Questa casa appartiene a mio marito. L'ha ereditata il giorno del nostro matrimonio. E abbiamo vissuto qui da allora. I nostri figli non vivono più con noi. Vengono in vacanza. Signori, bentornati a Chi vuole essere milionario. Posso certo dire che questa sera è la sera più importante delle nostre vite. L'eterna domanda: da dove veniamo? Dove andiamo? Che senso ha la vita? Non potete buttare via la gente così. Avete capito? Non potete trattarci in questo modo. Dicevamo allora The Millionaire, il film con cui vogliamo aprire questa nostra trasmissione, un film che ci sentiamo vivamente di consigliarvi. È il ritorno di Danny Boyle, regista che era esploso con Trainspotting, poi aveva firmato parecchie altre pellicole, fra cui The Beach, già un film che si chiamava Millions. Evidentemente il concetto dei milioni è rimasto attaccato a questo regista, che adesso con Slumdog Millionaire, come è il titolo originale, torna con un film tutto ambientato a Mumbai, la Mumbai recentemente devastata dagli attentati terroristici. La storia è quella di un ragazzo, di una ragazza che si amano, si inseguono, non si trovano praticamente mai, i loro pochi contatti durano pochissimo tempo perché subito sono costretti a scappare. Ma il pretesto, la linea narrativa di questo film è tutto incentrato su una trasmissione televisiva, Chi vuole essere milionario, esattamente il format che molti italiani conoscono. Ebbene, versione indiana di Chi vuole essere milionario, questo ragazzo venuto dalle periferie degradate, dalle bidonville di Mumbai, è a un passo dal vincere 20 milioni di rupie. È arrivato fino a quel punto indovinando ovviamente tutte le risposte che doveva indovinare, destando i sospetti e anche l'invidia del presentatore, che non vede di buon occhio il fatto che qualcuno possa in termini di popolarità scavalcarlo. E allora comincia a essere sospettoso, comincia a accusarlo di avere barato. Come hai fatto a sapere tutte le risposte giuste al momento giusto? Un raggiro che non c'è, il ragazzo non ha barato, semplicemente ha avuto molta fortuna. Tutte le domande, anche le più difficili, che gli sono state rivolte avevano a che fare con un particolare della sua infanzia, da una parte gioiosa, dall'altra drammatica, ma sono due aggettivi che in questo caso si possono sposare tranquillamente. Domanda finale per 20 milioni di rupie e lui sorride. Credo tu sappia la risposta. Non posso crederci. Beh, non la so. Non la sai. C'è un po' del Manzoni dei Promessi Sposi, c'è un po' del Dickens della Londra vittoriana in questo film, ambientato un po' nella favela di Mumbai, un po' nei palazzi di vetro e cemento della modernità indiana. Quel che è straordinario è il montaggio del film, è veramente incredibile. perché dona un dinamismo assoluto al film. L'alternanza fra i tempi della narrazione, fra il passato remoto dei protagonisti nella Bidonville, il passato prossimo dell'interrogatorio di polizia e il presente, rappresentato proprio dalla trasmissione TV, tiene lo spettatore col fiato costantemente sospeso, come in un grande giallo. The Millionaire è una favola contemporanea piena di azione e di poesia, davvero da non perdere. E noi abbiamo voluto anche raccogliere qualche dichiarazione del regista Danny Boyle, che in questo film ha preso un po' il cuore vero del cinema bollywoodiano, ovvero l'intensità melodrammatica, la musica di Allah Raka Rahman, uno dei più grandi compositori di colonne sonore in India. Insomma, Danny Boyle, cosa significa lavorare in India, ce lo dice in maniera abbastanza ironica. The crew never turn up in the morning. Beh, di sicuro il fatto che i componenti della troupe non si sono mai presentati sul set alla mattina all'orario stabilito. Gli indiani in questo sono terribili. Poi magari lavorano per te tutta la notte, anche gratis, ma sicuramente riuscire a farli alzare ed essere sul set in orario è una cosa impossibile da ottenere. The Millionaire, il film che ha aperto la rosa purpurea di questa settimana, è il primo consiglio di cuore che vi diamo per il weekend cinematografico. È una settimana, come dicevo, di grande cinema d'autore. Chissà se qualcuno di questi film riuscirà a entrare nella top 5 del box office, per il momento dominato ancora dai vampiri di Twilight. Ci racconta tutto nella Screen Parade Daniela Fagion. Un cagnetto supereroe alle calcagna dei vampiri da botteghino, perde una posizione ed è quinto. Intanto Changeling, che aggiunge altri 720.000 euro al suo incasso e supera i 3 milioni e 8 complessivi. Due posizioni in meno poi per La fidanzata di papà, che è quarto e veleggia oltre i 6 milioni per l'iniezione da 780.000 euro del fine settimana. Ma com'è questa first lady? Stile Carla Bruni o stile Naomi? Stabile al terzo posto, Nessuna verità, appena sotto il milione il weekend scorso, appena sotto i 2 milioni e 8 in tutto. Balza subito sul secondo gradino del podio il cagnolino Bolt, che cercando la sua amica Penny trova oltre 1 milione e 700 mila euro. Questo sì che è un nodo. Sei stato in marina? Medaglia d'oro confermata per il vampiresco Twilight, poco meno di 2 milioni e 4 solo nel fine settimana, un totale oltre i 7 milioni e 7, senza nemmeno bisogno dei canini in vista. Hai paura? Ho solo paura di perderti. La rosa purpurea. Musica pop degli anni 70 apre la seconda parte della Rosa Purpurea, perché sono proprio queste canzoni che molti di noi hanno cantato o ballato nella loro gioventù che fanno da colonna sonora a Stella, il film con il quale vogliamo proprio aprire questo secondo blocco, un film che ha commosso e incantato la Mostra del Cinema di Venezia, dove fu presentato nello scorso settembre nella sezione Le giornate degli autori. Stella è la storia di una ragazzina di 11 anni che vive in un bar, quello dei suoi genitori, un bar della periferia parigina, anche abbastanza mal frequentato. A volte ci sono risse, certo non mancano le parolacce, gli apprezzamenti alle signore più grandi, ma questo è il brodo in cui Stella è cresciuta. Quando Stella va alla scuola media, una scuola media del centro, cambierà radicalmente soprattutto i suoi compagni, soprattutto l'humus che la circonda, e dovrà un po' adeguarsi a questa nuova vita. Non sarà facile. Stella arriva alla nuova scuola con il pallone sotto braccio, con una grande grinta, se c'è da litigare litica. È una ragazzina ruspante, vera, come la gente che ha frequentato sin lì e che ha visto passare davanti agli occhi nella sua breve vita. Ma ci sarà una persona davvero speciale che la cambierà, le aprirà davvero nuovi orizzonti. È Gladys, la sua compagna di classe, ragazzina della Parigi Bene, che una volta viene aiutata dalla proletaria Stella e che creerà con lei un legame che solo i bambini sanno creare così forte, anche provenendo da ceti sociali o da provenienze culturali o economiche totalmente diverse. Gladys aiuterà Stella a capire l'importanza delle parole, l'aiuterà a entrare nel magico mondo dei libri, della lettura, alla quale Stella si appassionerà in maniera forsennata, come tutte le passioni dei ragazzini, che sono assolutamente totalizzanti. Ma attraverso i libri, attraverso le parole, Stella imparerà anche a esprimere se stessa, a rivolgersi al mondo, ad avere qualche arma in più per affrontarlo e per capire che forse quel mondo che fino a quel momento le sembrava l'unico possibile, attraverso il grande acquario del bar dei suoi genitori, era diventato un mondo che le stava troppo stretto e che forse non la faceva più felice. Nella vita di ognuno di noi c'è una sottile linea d'ombra da passare, la più difficile forse, quella fra l'infanzia e l'adolescenza, una zona nella quale ci addentriamo da soli, spinti dalla curiosità, forse anche dalla fretta, ma frenati dalla paura. È accaduto a ognuno di noi che poi, diventati adulti, non sempre grandi, ce ne siamo dimenticati. E invece quella è una delle fasi della vita più piene di domande e di solitudine. Attorno a questi concetti riflette Stella, il terzo film di Sylvie Verheyde, interpretato dalla piccola e bravissima Barbara Leroy, che, come dicevamo, ha davvero commosso e sconvolto il Festival di Venezia. Qualcuno ha parlato di un 400 colpi, di un Truffaut al femminile, per la delicatezza e la forza con la quale ha raccontato il microcosmo di una bambina che attraversa proprio questa linea d'ombra. Un film davvero straordinario. Marco Lodoli, scrittore e soprattutto insegnante di lettere, su Repubblica ha scritto che andrebbe fatto vedere a tutti i ragazzi delle periferie italiane, quelli ai quali provo a insegnare qualcosa ogni mattina e che soprattutto devo convincere in ogni modo a non abbandonare aule e libri, perché se mollano è la fine. Per loro fuori ci sarà solo desolazione e miseria, anche se sono convinti del contrario. Noi condividiamo appieno le parole di Marco Lodoli. Non ha fatto così la terza sessione della Commissione per la Censura, presieduta da Maria Pia Baccari, che ha pensato di vietarlo ai minori di 14 anni, ovvero proprio a quei ragazzini di cui parla Marco Lodoli. Molte delle prenotazioni per vedere quel film in proiezioni scolastiche addirittura devono essere forzatamente bloccate. Noi non possiamo altro che dire a chi ci ascolta: se avete un figlio di 14 anni un giorno, portatelo a vedere Stella. E ascoltiamo adesso l'intervista con Sylvie Verheyde, realizzata nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia. Non è mai stato facile essere giovani, a quanto si capisce dal film. Visto che questa è una storia anche abbastanza autobiografica, ritiene che sia più difficile oggi di un tempo attraversare quella fase in cui si passa dall'infanzia all'adolescenza? A mon avis, c'est plus difficile maintenant. Secondo me è molto più difficile oggi, è sempre più difficile. Penso che ora le generazioni nuove non progettino un futuro migliore per i loro figli e non è un buon modo per iniziare. E poi è sempre difficile passare dall'età dell'infanzia a quella adulta. È difficile de passer de l'età d'enfance à celui d'ado. Nel film la famiglia non riesce ad aiutare molto questa ragazzina. E anche la scuola a un certo punto sembra essere qualcosa di difficile, qualcosa di lontano. Però c'è un'amica. Quanto è stata importante la presenza di un'amica? En fait, c'est que donc c'est une petite fille qui n'est pas vraiment à sa place ni chez elle parce que un café. In effetti questa bambina non trova il suo spazio, non a casa sua, che è un bar anche frequentato da persone violente, e quello non è il posto giusto per una bambina. I genitori non si occupano tanto di lei, si occupano più di lei i clienti, e poi a scuola è comunque isolata perché arriva da un ambiente diverso. Troverà il suo posto con l'arrivo di Gladys, che diventa la sua migliore amica. Ecco che ha qualcuno che l'ascolta e allora inizia a parlare e dice chi è. È una storia d'amicizia, grazie alla sua amica poi scopre la letteratura e con questa scoperta trova un nuovo posto. Grazie a son amico, elle découvre la letteratura e che grazie alla letteratura elle trouve sa place aussi. Abbiamo parlato di Stella, un film sul quale dobbiamo anche fare un doveroso omaggio, perché è stato uno degli ultimi, se non l'ultimo, film in assoluto di Guillaume Depardieu, scomparso poche settimane fa, il figlio di Gérard Depardieu, anche lui attore che nel film recita nel ruolo di Alain Bernard, una sorta di fratello maggiore acquisito, diciamo così, per Stella, uno dei frequentatori del bar con i quali lei si confida e che crede essere una sorta di principe azzurro. L'addio quindi anche a Guillaume Depardieu in questo film. Noi siamo arrivati alla prima traccia misteriosa del DVD Game di questa settimana. Ma papà, sai, pensavo che forse io? Sì? Ecco, pensavo che forse io? Ah ah! Potrei anche vendere gli azzucchi dolci. Stanno per andare a male. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo privato all'indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it. Più tardi avremo ancora due chance per indovinare il film misterioso. E a questo punto noi andiamo avanti, perché c'è un altro film di un grande nome del cinema d'autore europeo e internazionale. Si tratta di Mike Leigh, il regista che insieme a Ken Loach ha raccontato la working class inglese. Lo fa anche stavolta mettendo in scena un personaggio però solare, sempre col sorriso sulle labbra, qualcuno pensa anche troppo. Si tratta di Poppy, la protagonista del suo Happy Go Lucky, La felicità non costa nulla. Ciao. Tu sei Poppy? In persona, piacere. Bene, la macchina è lì. Non sono in fretta. Ciao, cagnolone. E questa è la filosofia di Poppy al secolo Pauline, giovane maestra elementare della periferia londinese che solo a guardarla mette allegria. Sempre vestita con colori sgargianti, sembra volare sulla vita con il suo sorriso, sembra non avere mai una preoccupazione, in realtà ha semplicemente tanta forza per affrontarla, la vita di periferia. Non è ricca, non è bellissima, non ha amiche nel jet set, ma Poppy ha una inesauribile fiducia nella sua esistenza e in quello che la vita le può dare. Voglio che tu sia felice. Ma io sono felice. Io dico di no. Lo sono. Sì, a volte è dura, ma fa parte del gioco, no? Ho un buon lavoro, bambini eccezionali, amici stupendi. Sono molto fortunata e lo so. E allora cos'è la felicità? L'avete sentito dalle parole di Poppy? Forse troppo spesso ci chiediamo se siamo felici o pensiamo di non esserlo, quando la felicità forse si nasconde dietro gli angoli della nostra vita quotidiana, in quei momenti in cui pensiamo che si tratti di banale normalità e invece forse era solo felicità, la felicità che ci tocca giorno per giorno. E così è per Poppy, che passa le giornate a occuparsi più del suo oggi che del domani, che spende il suo tempo a scuola guida con un irascibile istruttore, che è proprio l'opposto di lei, oppure a cercare di imparare il flamenco, che balla con gli stivali con il tacco alto, sempre un po' inadeguata alla situazione, ma sempre estremamente positiva. Mike Leigh sceglie una commedia luminosa per questo suo nuovo film, lui che aveva raccontato storie di grandissima intensità, pensate al Segreto di Vera Drake, per esempio, e incontra in questa avventura una protagonista straordinaria, Sally Hawkins, che ha vinto a Berlino l'Orso d'Argento proprio per l'interpretazione di Happy Go Lucky. E allora andiamo a sentirlo, il regista Mike Leigh, parlare proprio di questa scelta di sposare per questa volta il tono della commedia. I haven't changed at all. I've never made a film that didn't contain... Non credo di aver cambiato direzione. Anche nei miei film precedenti c'erano elementi comici. Certo, questa è una commedia, ma si parla di cose serie e c'è un lato nero. Nonostante questo, cerco sempre di fare qualche cosa di nuovo. Questo film è diverso nel senso che cerca di mostrare un convincimento che ho fatto mio e che va reso evidente. Per me, in questo ventunesimo secolo dove tutto va a rotoli, è necessario non farsi prendere dalla moda di vedere tutto nero. Mike Leigh alla Rosa Purpurea per parlare di Happy Go Lucky, un'altra delle grandi proposte di questo denso fine settimana cinematografico. Noi a questo punto andiamo a un po' di evasione, però, perché arriva nelle sale cinematografiche italiane il quinto episodio di quella che si sta rivelando come una delle più durature saghe horror dei tempi recenti. Parliamo di Saw. Ci racconta il quinto capitolo la nostra Daniela Fagione. Un ex detenuto si ritrova in una trappola mortale per salvarsi, dalla quale deve sacrificare le sue mani, un tempo strumento di morte. L'agente Strahm trova il cadavere di Jigsaw e un messaggio che lo invita a non proseguire le sue indagini, richiesta puntualmente disattesa, con inevitabili conseguenze. L'investigatore Mark Hoffman infine si prende il merito di aver chiuso il caso, ma l'apparenza e la soluzione più scontata, si sa, sono sempre un errore nel mondo dell'enigmista. Uno di noi deve morire. No, no, ha detto di non seguire il nostro istinto. Non dobbiamo prendere la chiave. Ma sei stupida! Come facciamo a salvarci se non prendiamo le chiavi? Comincia comincia con una dotta citazione da Il pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe, il quinto episodio della saga di Jigsaw. Non sarà l'ultimo, probabilmente, visti gli incassi sempre fortunati, il finale viene tenuto debitamente aperto. Ma di sicuro si è perso il mordente degli inizi e parrebbe prossimo all'uscita di scena anche Tobin Bell, che incarna il padre degli enigmi. La rosa purpurea. Terza parte della rosa purpurea, ancora insieme con due film di cui parlare fra quelli che arrivano nelle sale cinematografiche italiane in questo fine settimana. Andiamo subito con il nostro colpo di fulmine di questa puntata della Rosa Purpurea. Si intitola The Visitor, l'ospite inatteso. Faccio finta di essere occupato. La verità è che è da tanto tempo che non faccio un vero lavoro. Io non faccio niente. Come avete sentito, è una vita vuota e stanca quella del professor Walter Vail. Si trascina per inerzia negli ultimi anni di insegnamento all'Università del Connecticut, provincia americana senza stimoli e senza pericoli. Il suo curriculum comincia a risentirne e così non può rifiutare l'offerta che gli fa un collega, andare a New York per presentare una relazione. Tornato nel suo piccolo appartamento della Grande Mela, da tempo lasciato disabitato, Walter fa l'incontro destinato a dare una scossa alla sua vita. Ho le chiavi! Zena! Fermo! Fermo! Zitto! Fermo! Zitto! Va bene, va bene, va bene. Tu chi sei? Tu hai le chiavi? Certo che le ho, questo è il mio appartamento. Una coppia di immigrati illegali, Tarek e Zainab, lui siriano, lei senegalese, vittime di un truffatore russo che gli ha affittato la casa come fosse sua. Lo spavento, la diffidenza reciproca. Poi Walter prende le due decisioni che aprono il cuore della coppia. Il professor Vail non chiama la polizia e li ospita. Per qualche giorno, dice. Ma man mano che il tempo passa, Walter sente di non poter più fare a meno di quella compagnia, di quei valori che rimettono in moto il metabolismo della sua anima spenta. E se Zainab continua a tenere le distanze dall'anziano professore, Tarek lo coinvolge nella sua passione lavoro, il tamburo. So che sei un uomo molto intelligente, ma col tamburo devi ricordarti di non pensare. Pensare incasina tutto, chiaro? Chiaro. Da un paio di colpi. Non così forte, non ce l'hai con lui. Va bene, mi dispiace. Ok, sta a sentire. Un giorno, un banale movimento, lo scavalcamento di una balaustra del metrò, attira l'attenzione della polizia e Tarek viene arrestato. No, aspettate, io ho pagato. Guardi, per che favore. È vero, ha pagato. Ma le dico che ha pagato. Signore, resti dov'è? Ha nient'altro con sé, Tarek? No. Di dov'è? Siria, perché? Che facciamo? Meglio portarlo al distretto. Non credo che sia necessario. Noi sì, se vuole può rilasciare una deposizione. Ma lui non ha fatto Signore, niente. Signore, non ho altro da dirle. Stia indietro o porteremo dentro anche lei. Comincia un'odissea senza fine. Tarek viene trasportato in una prigione di massima sicurezza. Contro di lui non ci sono accuse precise né reati da contestare. Tarek è vittima della sindrome da terrorismo presunto che ha colpito l'America dopo l'11 settembre. È siriano, è clandestino, quindi va tenuto in isolamento e possibilmente espulso. A New York arriva anche sua madre, l'intensa attrice israeliana Hiam Abbas. Sarà il vecchio Walter, ormai distante dal suo lavoro e dalla sua vita passata, a prendersi cura di entrambi, come se quella fosse stata da sempre la sua famiglia. Visitor, l'ospite inatteso, è un piccolo gioiello che ci fa riflettere sull'America ancora vicina all'11 settembre più che all'era di Obama. Un film che analizza le ricadute che le tragedie della storia hanno nella vita della gente, anche molti anni dopo la loro conclusione. Quando si uscirà dall'emergenza? Quanti anni ci vorranno ancora? Sono gli interrogativi che animano i personaggi del film, che umanamente quell'emergenza l'hanno superata ben prima della politica. Ma l'ospite inatteso è anche il trionfo di un attore, Richard Jenkins, volto noto più del suo nome nel panorama del cinema americano. 61 anni, ha lavorato con Woody Allen, Mike Nichols, Clint Eastwood, Sidney Pollack, i fratelli Farrelly e fratelli Coen. Ora un ruolo da protagonista assoluto che lo pone in pole position per la nomination agli Oscar. Sarebbe davvero un riconoscimento meritato. Seconda incursione del DVD Game nel nostro programma. Andiamo ad ascoltare una nuova traccia misteriosa del film di questa settimana. Allora, come funziona? Avete una scala o un trampolino? Credi che sia così facile che io ti consegni nelle mani il segreto del potere illimitato? No! La rosa purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi avrete un'altra possibilità. Noi andiamo avanti con le proposte in sala, analizzando l'ultima che trova spazio nella nostra trasmissione in questo weekend. Si tratta di un grande film corale francese firmato da un regista solido come Arnaud Desplechin, con un cast altrettanto importante in cui spicca Catherine Deneuve. Il titolo è Racconto di Natale, lo ha visto per noi Diego Giuliani. Questa casa appartiene a mio marito. L'ha ereditata il giorno del nostro matrimonio. E abbiamo vissuto qui da allora. I nostri figli non vivono più con noi, vengono in vacanza. Non fatevi ingannare da musica e premesse. Il racconto di Natale che ci regala Arnaud Desplechin è tutt'altro che rassicurante, glassato fuori, amarissimo dentro, come l'esistenza dei Villard. Madre e padre insieme da una vita, tre figli grandi con rispettivi nipotini, ma niente è come sembra in questa antifiaba per le feste. Certo che siete strani nella tua famiglia. Perché Elisabetta ti odia tanto? Non l'ho mai capito, è andata così, è successo. Un odio distruttivo rode alle fondamenta all'intera famiglia, un sentimento che avvelena Natale e rapporti come la leucemia fa con il sangue di Junon, l'autorevole ancora bellissima capostipite a cui presta il volto Catherine Deneuve, il regista Arnaud Desplechin. Non c'est souvent une chose qu'on entend. Quello che è interessante è vedere che succede quando il veleno arriva all'interno della famiglia. Quando un dramma arriva all'interno di una famiglia, tutto cambia, si sbriciola. La famiglia in questione era già a pezzi all'inizio del film, si aggiunge disordine a disordine fino alla fine, ma non penso che la famiglia sia patologica di per sé. In questa famiglia già disgregata è interessante vedere le reazioni quando arriva la leucemia, diventa imbarazzante e per questo interessante. Plus intéressant, oui, quand c'est plus embarrassant, donc c'est plus intéressant. Per il trapianto di midollo necessario a salvare Junon, la famiglia prova a fare quadrato. Non è però facile mettere insieme i cocci. Una figlia che ha bandito il fratello dalla sua vita, un altro inconcludente a rischio alcolismo e poi un nipotino che a 15 anni appena decide già di rifugiarsi nell'esaurimento nervoso. Elisabeth, tu hai un vero problema di relazione. E sono venuto pure a sapere... Chiudi quella bocca, sono qua. Sì, lo so, ma tu non fai testo. E sono venuto... Non è un caso che più sane di tutti appaiano proprio le donne che alla famiglia sono soltanto aggregate. Insieme ad Emmanuelle Devaux, fidanzata del più giovane Simon, anche la bella Silvia a cui presta il volto Chiara Mastroianni, presenza luminosa e vitale che a sentire la Deneuve avrebbe rischiato di oscurare addirittura mamma Catherine. Fortunatamente, o non lo so se è stata una fortuna, ma non ci sono state scene nelle quali ho recitato da sola con lei. Sarebbe stato più difficile, o forse era l'idea che mi avrebbe spaventato. Mia figlia è un'attrice, quando siamo in scena mi rapporto con lei esattamente come con gli altri. In questo caso è stato un po' come lavorare a teatro perché abbiamo condiviso la stessa casa. Ci svegliavamo assieme in Provenza, mangiavamo assieme. A me piace molto girare fuori, si trova più tempo per stare assieme. J'aime beaucoup les tournages en extérieur, on est beaucoup plus disponible, je trouve, pour se voir. Un racconto di Natale, noi abbiamo concluso le uscite di questo fine settimana, le proposte cinematografiche di Una Weekend che, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, è davvero anomalo per la qualità totale dei film che vi abbiamo fatto vivere, speriamo, con i nostri racconti. E quindi una settimana dove si rischia di sbagliare davvero poco, qualsiasi film di questi venga scelto. È arrivato il momento invece di dedicarci a un'altra delle nostre rubriche, dei nostri appuntamenti abituali qui alla Rosa Purpurea, ovvero Trailer USA, la nostra vetrina sulle anteprime americane, sui film che escono in America attraverso l'ascolto degli audio, dei trailer originali. In America oggi, domani li troveremo in Italia, sono film con i quali conviene cominciare a fare amicizia. Parliamo oggi di Bride Wars, letteralmente Guerre tra Spose, che uscirà in Italia il 13 febbraio, la vigilia di San Valentino, con il titolo La mia miglior nemica. E come sempre abbiamo qui con noi per raccontarcelo Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora parliamo di questo Bride Wars, che nel cast ha due bellissime attrici di Hollywood, Kate Hudson e Anne Hathaway, che tra l'altro sembra essere a sua volta in corsa per una nomination all'Oscar. Oscar. Sì, le due attrici sono rispettivamente Liv ed Emma, sono due grandi amiche per la pelle che sognano come tutte le ragazze il principe azzurro e il matrimonio. Quando finalmente arriva il grande giorno, peraltro vengono chieste in sposa proprio lo stesso giorno, decidono di essere damigelle l'una dell'altra e di fissare la data delle nozze al mitico Plaza di New York a un giorno di distanza l'una dall'altra, come sentiremo tra poco nel trailer. I have three openings at the Plaza. Two. The sixth one be 27. Oh, my parents' anniversary is the 6th. It's so meant to be. Oh, then I'll take the 27. Poi però arriva ovviamente l'imprevisto. Ora, nel prossimo trailer sentiremo invece il momento in cui l'organizzatrice dei due matrimoni, interpretata da Candice Bergen, annuncia alle ragazze che per una serie di coincidenze la data sarà la stessa e non c'è nessun modo per accontentare una o l'altra spostando il giorno. Your wedding dates have been booked on the same day. Which one of you wants to choose another venue? What? Naturalmente Franco a questo punto inizia una lotta all'ultimo sangue, se ne combineranno di tutti i colori, la Hathaway si ritroverà con la pelle arancione, Kate Hudson con i capelli blu, finché una delle due irrompe vestita di bianco al matrimonio dell'altra con un bel colpo di scena. Ora sentiamo un ultimo pezzettino di trailer in cui le due ragazze, le due grandi amiche, adesso migliori nemiche, cominciano a insultarsi pesantemente. Your wedding better watch it. If I were your wedding, I'd be sleeping with one eye open. You're right, your wedding will be huge, just like your ass at prom. Your wedding can suck it. Insomma, due spose cattive, tutte da ridere, in Bride Wars al cinema, in Italia, lo ripetiamo, dal mese di febbraio. Un saluto a Micaela Bellisario. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori, alla prossima settimana. E prima di dare la linea alla regia per l'ultima volta, io voglio darvi un appuntamento. Sarebbe bello potersi conoscere per una volta, vis-à-vis, parlare di cinema insieme. Potrà succedere martedì 9 dicembre alle 18:30 in una nuova struttura che ho personalmente l'onore di aprire, una sorta di piccola nuova casa del cinema a Milano. Si tratta dello spazio Teca in Piazza Castello al 5, quindi estremamente centrale, che vuole proporsi proprio come spazio per discutere delle arti in generale, del cinema in particolare in questo caso. Avremo la possibilità di chiacchierare insieme, di vedere tutte quelle che sono le anticipazioni del cinema di Natale, del panorama natalizio cinematografico, e di discutere sul fatto che si tratti solo di cinepanettoni o che invece ci siano, come invece ci saranno effettivamente, alternative per un Natale cinematografico di qualità. L'appuntamento, lo ricordo ancora, è alla Teca, Casa del Cinema di Milano, Piazza Castello al 5, martedì 9 dicembre alle 18:30. Io ci sarò, speriamo che ci siate anche voi, numerosi. La Rosa Purpurea. Musica da Alfred Mersenne. Le note malinconiche del fado portoghese Amália Rodrigues per introdurre il tema che apre questa quarta parte della Rosa Purpura. È un omaggio che vogliamo fare davvero a uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, ma del cinema in assoluto. Compie 100 anni il prossimo 11 dicembre Manuel de Oliveira, il maestro del cinema portoghese, protagonista di 80 anni praticamente di cinema. Pensate che ha cominciato a lavorare con il muto addirittura, almeno negli ultimi 20 anni, uno dei cineasti che hanno animato in assoluto con la loro intelligenza, la loro brillantezza, la loro capacità di riflettere attraverso il cinema i festival di tutto il mondo. È un omaggio che facciamo anche per provare a invitare il pubblico a scoprire, se non lo avesse già fatto, l'autore di grandi capolavori come Il principio dell'incertezza, Il film parlato, Belle toujours, Ritorno a casa, Specchio magico, tutti film che fanno parte tra l'altro di un cofanetto e di una pubblicazione che Dolmen dedica proprio ai 100 anni di Manuel de Oliveira. Noi abbiamo chiesto alla nostra Chiara Pizzimenti mettere insieme un po' un collage anche con brani di intervista raccolti negli anni con il maestro portoghese per cercare di ricostruire la personalità e la cinematografia di Manuel de Oliveira. Siamo tutti cineasti. Ognuno di noi, quando vede un quadro o legge un libro, si fa un suo film interiore. Parole di un uomo la cui vita è il cinema. Manuel de Oliveira, 100 anni l'11 dicembre, il più importante regista portoghese, uno dei maggiori esponenti della storia del cinema mondiale, nato a Oporto nel 1908. Il padre lo porta a vedere le pellicole di Chaplin e Max Linder. Lui studia da attore e vive da sportivo. Negli anni 30 però si compra una macchina da presa e comincia a girare film muti, documentari. Nel 42 il primo lungometraggio. Io vivo Manuel de Oliveira è il Portogallo, dunque, ma non solo. Durante il regime di Salazar, negli anni 50, nel suo paese non poteva lavorare e andò in Germania, passò attraverso la Francia per ritornare infine a casa a creare i suoi capolavori. Atto di Primavera, La Caccia, La Divina Commedia, La Lettera, Belle Toujours, Bella Sempre, con Michel Piccoli. Come Ritorno a casa. Avete sfiorato 1000 volte la morte. La sfioravo soltanto, lei non era per me, lo sentivo. Ecco la morte, uno dei temi universali che scorrono nel cinema di De Oliveira, insieme all'incomunicabilità, ma anche alla centralità dell'uomo e alla vita, temi che ritornano dagli anni 50 fino a oggi, fino a uno degli ultimi progetti di cui il regista ci ha raccontato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2007. È tornata alla luce un'idea che avevo avuto negli anni 50. E che allora, durante la dittatura di Salazar, era stata rifiutata. E io stesso sono rimasto sorpreso dalla prospettiva del mio testo di allora. Mi ha colpito l'energia che viene da questo scritto e dai tanti piani che comprende. Sto cercando di riprendere tutta l'opera come vedo il cinema oggi, ed è molto diverso da come lo vedevo ieri. È la storia di un ebreo sopravvissuto in Portogallo, è ossessionato dall'immagine della morte. Cannes, dove quest'anno ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera, e Venezia sono i festival della sua vita. Al Lido ha portato nel 2003 l'opera più riuscita dei suoi ultimi anni e forse di tutto il suo cinema, un film parlato, una crociera che racconta tutta la storia dell'Occidente, nel cast attori di culture e lingue diverse, Irene Papas, Catherine Deneuve, John Malkovich e Stefania Sandrelli, che così ha raccontato il suo incontro con il regista. Quando mi ha proposto il film, mi ha detto: ma hai capito bene, cioè Manuel de Oliveira, lui? Poi mi ha fatto andare a Napoli, dove mi ha conosciuto, e per 2 sere praticamente ha parlato ininterrottamente a cena. Era sul set il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene. Nel 2004 a Venezia il Leone d'Oro alla carriera, e al Lido arrivò con lo storico Quinto Imperio. Allora, in un'intervista, ci ha raccontato del suo rapporto con i giovani, non però nel ruolo di maestro. Non insegno loro niente e invece imparo da loro. Io non dirigo gli attori, li lascio liberi, metto dei paletti e poi lascio che si esprimano. Preferisco non fare mai molti ciao. La premier prise. Grazie a Chiara Pizzimenti per il profilo del maestro Manuel de Oliveira, che il prossimo 11 dicembre compie 100 anni. Davvero auguri, e presto lo rivedremo sicuramente a un festival in sala a mostrarci il suo cinema sempre nuovo, con una forza e un'energia davvero insospettabili. A questo punto noi andiamo ad ascoltare la terza e ultima traccia del DVD Game di questa settimana. Pensavi davvero di imparare a fare la spaccata in una sola notte? Ci vogliono anni per sviluppare una flessibilità e ancora di più per applicarla in combattimento. Se avete indovinato di che film si tratta, vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica alla rosapurpurea@radio24.it. E a questo punto noi siamo in collegamento con il nostro Claudio Pofi, che ci aiuterà a districarci nelle novità in DVD della settimana. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Prima di cominciare con le novità, Claudio, andiamo a dare un'occhiata come sempre retroattiva a quello che era successo la scorsa settimana, facendovi ascoltare un passaggio delle tracce che avevamo seminato. E ora passiamo al prossimo lotto, la corona reale di Betmora. Appartenuta a una cultura perduta da lungo tempo. Perduta? Assolutamente no. Anzi, molto viva. E io sono qui per reclamare ciò che è mio di diritto. Si trattava di Hellboy, The Golden Army, l'esercito d'oro, la seconda parte, il secondo episodio della saga di Hellboy. Hanno vinto e riceveranno il DVD Davide Sabato di Tradate, in provincia di Varese, ed Enrico Menin di Vicenza. Claudio, cosa possiamo dire del DVD? Ma il film di Guillermo del Toro è stato realizzato da Universal in modo splendido su DVD. Nella versione un disco è presente il commento audio per tutto il film del regista, una visita ai set e approfondimenti a cura del regista sulla lavorazione. Ricordo che Hellboy 2 Golden Army è disponibile anche in un'edizione 2 dischi, una Collector's Edition e a brevissimo anche un'edizione edizione, due dischi Blu-ray, alta definizione. Questo per quanto riguarda il DVD Game della scorsa settimana. Noi abbiamo però altri due film di cui parlarvi. Cominciamo da un grande successo popolare in televisione, stiamo parlando di Sex and the City, di cui invece durante la scorsa stagione è arrivato nelle sale anche il film, appunto per il grande schermo, che adesso arriva in DVD. Ascoltiamo la clip. Ogni quanto voi fate sesso? Sesso? Oh, Miranda, per favore! Che c'è? Ha 3 anni, non sa cosa significa. Se dovevamo surgelare le chiacchiere da donna, non mi sarei fatta migliaia di chilometri. Distribuisce 01, la storia delle nostre 4 amiche, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, dopo 4 anni dalla conclusione della fortunata serie dell'HBO, ritornano i personaggi di sempre con nuovi problemi, vecchi problemi. Qualcuno affronterà una maternità, forse qualcuno si sposerà. Il DVD è di ottima qualità, disponibile 2 tracce in italiano e inglese in Dolby Digital Multicanale. Nella versione un disco è presente il commento del regista, ma è disponibile anche un'edizione 2 DVD. E l'ultima segnalazione riguarda invece un film che ci porta indietro negli anni, quasi 50 anni fa. Si intitola La selva dei dannati, mischia l'avventura a un sapore vagamente politico. Ascoltiamo la clip. Gli spiccioli non fanno per me. Ah, ne vedi molti di bigliettoni? Non proprio quanti speravo. È perciò che sono finita in questa fogna. Però non hai l'aria di quel che sei. Non sei, e comunque lo sono. Distribuisce Flamingo Video per Cecchi Gori, quest'opera di Louis Buñuel del 56, dove in un immaginario paese tropicale sudamericano si scatena questa sommossa di cercatori di diamanti che viene soffocata nel sangue dalla polizia che governa il paese con i fucili. La qualità dell'opera è abbastanza buona, purtroppo si riscontrano in alcuni fotogrammi dei limiti legati all'usura del tempo. È molto interessante la parte audio, perché oltre all'italiano abbiamo disponibile anche la traccia monofonica originale in francese. Grazie allora Claudio Pofi, appuntamento come sempre la prossima settimana per raccontarci le novità in DVD qui alla Rosa Purpurea. A presto, un saluto. E prima di chiudere c'è ancora lo spazio per una segnalazione che è un po' un ponte che vogliamo lanciare proprio sulla prossima puntata, perché a Palermo dal 10 al 14 dicembre ci saranno gli Stati Generali del documentario italiano, un genere, quello documentario, che ha ritrovato grande vitalità negli ultimi anni. Tra l'altro saranno 4-5 giorni davvero straordinari, con omaggi a Wim Wenders, a Gianfranco Rosi. Insomma, avremo modo di parlarne nella prossima puntata della Rosa Purpurea, proprio cercando di fare un punto su quella che è la produzione del documentario italiano, grazie anche appunto agli Stati Generali del documentario che si svolgeranno a Palermo dal 10 al 14 dicembre. E a questo punto noi siamo giunti quindi alla fine della puntata. Un saluto da Franco D'Assisti, ci risentiamo qui fra 7 giorni alla Rosa Purpurea.